X24, la storia. Era privo di attrattive. Non aveva un bel viso e non irradiava una personalità particolare. Era una persona tutt'altro che eccezionale. Ogni regime per funzionare ha bisogno di burocrati. Fra tutti i funzionari della ristretta cerchia di Hitler, un semplice luogotenente riesce a raggiungere un potere tale da permettersi di influenzare il corso della storia e il destino di milioni di persone. Quell'uomo è Martin Bormann. Se non ci fosse stato Bormann, Hitler si sarebbe autodistrutto molto prima e forse la guerra sarebbe finita più in fretta. Fu Bormann a tenerlo in piedi. Ma l'uomo che visse all'ombra di Hitler resta un enigma della storia. Bormann, infatti, un oscuro funzionario del partito nazista, eppure riesce a diventare capo della cancelleria e poi segretario del Führer. Insomma, l'uomo che aziona e regola i meccanismi della macchina del Reich. Poi a Norimberga, quando gli alleati processano il regime nazista e i suoi gerarchi, Martin Bormann non c'è. È condannato in contumacia. Di lui, infatti, si sono perse le tracce subito dopo la fine della guerra e la sua scomparsa è un giallo. La sua morte è un mistero. La posizione ufficiale del governo tedesco sulla scomparsa di Martin Bormann è che egli morì a Berlino la notte del 1 maggio 1945. Causa del decesso, suicidio per avvelenamento da cianuro. Nel 1962 furono fatte ricerche in tutta la zona, ma senza alcun risultato. È il 1972 quando alcuni operai di un cantiere nei pressi del ponte scoprono casualmente due scheletri umani. Forse uno dei due può essere quello di Bormann. Il teschio viene esaminato da due esperti che lo mettono a confronto con la cartella odontoiatrica di Bormann. Le forti possibilità che si possa trattare del medesimo calco convincono il governo tedesco ad archiviare il caso. Ma non tutti sono d'accordo. Il dottor Hugh Thomas ha prestato assistenza all'equipe di medici legali che avevano eseguito l'esame nel 1962. Il ponte, la capsula d'oro, tutte le otturazioni, l'insieme dei trattamenti mi inducevano a pensare che si trattasse di lavori che potevano benissimo essere stati eseguiti dopo il 1945. La reazione iniziale da parte dell'equipe di esperti fu di vero e proprio terrore. Non so quali fossero i motivi, ma non era certamente una reazione da scienziati. Non si può eliminare una prova solo perché non coincide con i dati che si possiedono o con l'idea che uno si è fatta della vicenda. Gerald Posner, scrittore e reporter, ha scritto il racconto definitivo su Josef Mengele, l'angelo della morte di Auschwitz, e per anni ha condotto ricerche anche sul vice di Hitler, Martin Bormann. Tra i massimi esponenti del Terzo Reich, Bormann forse era quello che avrebbe avuto meno problemi di tutti a scomparire dopo la guerra, e questo grazie alla capacità che aveva di passare inosservato. Se durante la guerra avessimo mostrato a dei semplici cittadini tedeschi una foto di Bormann, molti non avrebbero saputo dire chi fosse. I familiari sono convinti che Martin Bormann morì nel 1945. Per il figlio, Martin Bormann Jr., è inconcepibile pensare altrimenti. Dalla fine della guerra non ha più avuto notizie del padre e considera attendibile la posizione del governo tedesco. Tutte le inchieste sono state chiuse, la morte è stata dichiarata. Tra i denti di entrambi gli scheletri sono state ritrovate schegge di vetri. Per me è la prova che il decesso è avvenuto per suicidio. Grazie ai progressi della scienza, nell'aprile del 98, in un laboratorio tedesco di analisi sul DNA, si è potuto finalmente disegnare la mappa genetica delle ossa rinvenute. Questi dati sono stati messi a confronto con i campioni del sangue dei familiari e le analisi sono risultate positive. Le ossa rinvenute nel 72 appartengono proprio a Martin Bormann. Dunque quei resti ritrovati sotto un ponte di Berlino sono di Martin Bormann. Così dice la scienza con gli esami effettuati col DNA. E la conferma verrebbe anche dagli stessi familiari che da dopo la guerra non hanno più avuto sue notizie. Ma per altri non è così. Per molti studiosi il caso Bormann è stato chiuso troppo in fretta, con leggerezza. E chi lo conosceva bene dice che è impensabile immaginare un suicidio da parte di Bormann. Una persona rozza, senza particolare carisma, l'antitesi dell'ideale ariano, tutto tranne che un brillante ufficiale nazista. E questa è la descrizione di Bormann nei ricordi di chi lo conobbe prima e durante la guerra. Ma come ha fatto un uomo così a conquistare la fiducia e la stima di Hitler? Il fotografo ufficiale del Reich, Walter Frenz, ha un ricordo molto vivo di Martin Bormann. Bisognava rispettarlo solo per la sua posizione, ma non era l'esemplare fotografico ideale. Non era fotogenico, non ci teneva a farsi notare, preferiva esercitare il suo potere dietro le quinte. Per fotografarlo bisognava parlare prima con lui. Non era molto alto, ma occupava una posizione di enorme potere. Tutti gli uomini del partito dovevano stare attenti a Bormann e fare in modo che non li mettesse in cattiva luce col Führer. Non era uno di cui sentivi di poterti fidare. Era subdolo, intrigante. La sensazione diffusa era mai fidarsi di Bormann. Pensavamo che Hitler vedesse in Bormann un fedele servitore e probabilmente lo era davvero. Ma Hitler non venne mai a sapere che Bormann agiva anche di propria iniziativa e talvolta contro i desideri dello stesso Führer. Martin Bormann vigila su tutto e dà ordini. Il segretario di Hitler tiene sotto controllo l'intera gerarchia nazista, della quale si presenta come un diligente servitore. Ancora il giornalista Gerhard Posner. Bormann mi fa pensare a un Edgar Hoover del Terzo Reich, e anche lui compilava dossier sulla vita privata delle persone. Conosceva le abitudini sessuali di Goebbels e le relazioni clandestine di tanti personaggi. Custodiva informative sulla tossicodipendenza e sugli eccessi sessuali di Göring. Raccoglieva informazioni sui rivali per usarle contro di loro, cosa che seppe sempre fare con grande tempismo. Insomma, un uomo ambiguo e sfuggente, pieno di complessi ma ambiziosissimo. Un uomo frustrato che non si accontenta mai della posizione raggiunta e per fare carriera Bormann non esita a sporcarsi le mani e a usare tutto il materiale compromettente di cui dispone sulla vita dei gerarchi nazisti. Siamo a Mix24 e con Marina Milone vi stiamo raccontando la storia di una delle figure più decisive e insieme misteriose del Terzo Reich. È Martin Bormann, segretario del Führer, manovratore e tessitore del potere nazista in Germania. Erano tutti ai suoi ordini. Tutto quello che succedeva doveva saperlo per primo Bormann. Da dove nasce questa ambizione sfrenata e questo desiderio di emergere a ogni costo? Forse la chiave dell'enigma di Bormann è nel suo passato, in quella cittadina di provincia della vecchia Germania imperiale. Martin Bormann nasce nella cittadina di Halberstadt all'inizio del nuovo secolo. È il 17 giugno 1900. Martin ha un fratello e due fratellastri. Suo padre, Theodor, un impiegato delle poste, riesce a stento a mandare avanti la sempre più numerosa famiglia. Quando Martin ha 3 anni, Theodor muore. La madre si risposa presto con lo zio di Martin, anch'egli rimasto vedovo da poco e padre di 5 figli. La famiglia allargata si trasferisce a Weimar. Negli anni della scuola superiore, Bormann è contagiato dal fanatismo nazionalista. Studente mediocre, abbandona gli studi senza conseguire il diploma. Intanto, nel 1914, il mondo precipita in una guerra che presto coinvolgerà tutta l'Europa. Nell'ultimo anno del conflitto, al compimento dei 17 anni, Bormann si arruola nel 55esimo reggimento di artiglieria da campo. È qui che vengono notate per la prima volta le sue doti di organizzatore, che gli fanno guadagnare il rispetto dei superiori. Dopo la guerra, l'economia tedesca è in ginocchio. Come tanti altri reduci, Bormann è disilluso. La sua unica aspirazione è la sopravvivenza. Trova lavoro nella fattoria del podere Herzberg. Il suo nuovo datore di lavoro è un nazionalista e acceso anticomunista. Bormann ne subisce l'influenza ed entra nei Freikorps, una milizia paramilitare che ha l'obiettivo di liberare la Germania dai comunisti. Ne fa parte anche Rudolf Höss, futuro comandante del campo di sterminio di Auschwitz. Per dimostrare il suo patriottismo, Bormann aiuta un gruppo guidato da Höss a sequestrare un ex insegnante sospettato di tradimento. La sera del 13 maggio 1923, la vittima viene pestata a morte. Arrestato, Bormann viene condannato a soli 12 mesi di carcere. In prigione rafforza le sue convinzioni politiche radicali. Sarà un anno decisivo per la sua vita futura. Uscito di prigione, Bormann si iscrive al Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi nel 1925. Si mette subito in luce per le sue qualità organizzative e entra nella direzione del partito a Monaco. È qui che Bormann incontra Gerda Buch. Gerda è la figlia del sindaco Walter Buch, giudice del partito e amico da lunga data di Adolf Hitler. Settembre 1929. Martin e Gerda si sposano. Adolf Hitler è presente alla cerimonia e per l'occasione presta agli sposini la sua Mercedes nera. Il matrimonio con la Buch rappresenta per Bormann il trampolino sociale di cui ha bisogno per la scalata al potere. Il primo figlio è un maschio e Bormann chiede a Adolf Hitler di fargli da padrino al battesimo. Il bambino viene chiamato Adolf Martin. Ma nessuno mi ha mai chiamato Adolf. A casa ero Krönzi, il principino ereditario, il primogenito, e poi soltanto Martin. Era un padre affettuoso, ma anche severo, abbastanza rigido. Però si è sempre occupato molto di noi. Dal suo ufficio di Monaco, Bormann amministra gli affari del partito. Si occupa delle questioni finanziarie e con le sue capacità organizzative riesce a portare nuovi iscritti e aumentare la popolarità del partito. È da Monaco dunque che parte la scalata al successo di Bormann. Il cassiere del partito nazista capisce molto in fretta che la chiave della cassaforte è anche un potente strumento per fare carriera. Ben presto Bormann imparerà a utilizzare quei fondi anche per soddisfare i caprici e i desideri degli altri gerarchi nazisti, a cominciare da Rudolf Hess e dallo stesso Hitler. Ma soprattutto, quando Hitler conquisterà il potere, non si dimenticherà di quel fedelissimo amministratore. Le elezioni del 1933 portano i nazisti al potere. Hitler, nuovo Führer della Germania, lo chiama nella sua segreteria. Il nuovo capo di Bormann è il suo vecchio amico, Rudolf Hess, uno dei ministri più vicini ad Hitler. Mentre Hitler consolida il suo potere in Germania, l'ufficio di Bormann dirama ordini e direttive. Bormann avvia le prime epurazioni di cittadini ebrei da diversi albi professionali. Le tradizionali preghiere che si recitano nelle scuole vengono sostituite con slogan nazionalsocialisti e sarà suo l'ordine di portare cucita sugli abiti una stella gialla. Bormann è diligente ma irrequieto. La sua occupazione principale è quella di attirare l'attenzione di Hitler. Ancora Gerald Posner. Sempre che Bormann abbia mai davvero ammirato qualcuno, si può dire che provasse dell'ammirazione sincera per Hitler. Ma Bormann non era come Goebbels o Rudolf Hess che nutrivano per il Führer una devozione quasi servile. Bormann era devoto in primo luogo a se stesso, per nessun altro nutriva un interesse così grande. Tuttavia sapeva di avere bisogno di Hitler, perché era il capo del Reich, e per questo si dedicò al Führer e lo servì fedelmente. Su questo non ci sono dubbi. Nel 1935 Martin Bormann decide di costruire per Hitler una residenza di montagna. Sceglie la località, la Baviera, e si occupa di realizzare l'intero progetto. Per la prima volta ha la possibilità di dare ordini a propria discrezione. È proprio durante i lavori che viene alla luce il carattere incostante di Bormann. Gli ingegneri vengono obbligati a cambiare il progetto in corso d'opera. Agli abitanti del luogo viene ordinato di trasferirsi altrove. Nulla deve intralciare il suo grandioso progetto. Quando un proprietario terriero si rifiuta di andarsene, Bormann non si fa scrupoli. Lo ricorda il direttore dei lavori, Max Hartmann. Bormann ordinò di scrivergli una lettera per dirgli che rischiava di essere mandato in un campo di concentramento. Ovviamente quello cedette. Avevano tutti una paura dannata. Certe volte diventava terribile. Quando qualcosa non gli piaceva, perdeva il lume della ragione. Portava sempre il suo frustino da cavallo che agitava di continuo. Girava con un grosso binocolo col quale perlustrava continuamente tutta la zona circostante. Era sempre alla ricerca di qualcosa che non andava. E quando la trovava, andava su tutte le furie. Un giorno, al tramonto, uno dei miei operai si appartò vicino ad un albero lungo la strada per orinare. «Fa che succeda di nuovo», disse Bormann. e quello vola giù dalla montagna. Il complesso non manca di sfarzo, ma alcune strutture, compreso un labirinto di bunker sotterranei, lo fanno somigliare più a una fortezza che a una residenza di montagna. All'interno, un lussuoso ascensore rivestito d'ottone sale per 40 piani attraverso la roccia fino a raggiungere la sommità. 20 aprile 1938, il Führer festeggia il 50° compleanno. Bormann gli presenta il suo regalo. Sulla vetta più alta ha fatto costruire per lui la casa da tè successivamente nota come il nido dell'aquila. Hitler non lo voleva, lo trovava troppo costoso. Non voleva nemmeno andarci. Gli dava fastidio la luce e lassù era luminosissimo. Preferiva l'oscurità, non tutta quella luce. Solo a Bormann piaceva. Bormann cerca di convincere Hitler. Un giorno, mentre sta osservando il panorama dal Berghof, Hitler si lamenta con Bormann che una baita giù a valle rovina quella veduta altrimenti incontaminata. In men che non si dica, Bormann paga gli anziani proprietari e fa abbattere la casa. Quando il Führer torna ad affacciarsi dal belvedere, al posto della baita vede delle mucche al pascolo. Con la costruzione del nido dell'aquila, Bormann ce l'ha fatta. Per Hitler adesso è diventato indispensabile. Nelle sue passeggiate in montagna Hitler è sempre seguito dalla sua ombra. Bormann ha sempre con sé una matita e dei fogli di carta per appuntarsi i pensieri, i desideri e anche gli ordini del Führer. Ma quell'idillio sta per finire, la Germania sta per precipitare nell'incubo della Seconda Guerra Mondiale e anche il destino di Bormann cambierà per sempre. Bentornati a Mix24, stiamo raccontando l'ascesa di Manfred Bormann, il funzionario del partito nazista che riesce a diventare capo della cancelleria e poi segretario del Führer, insomma, l'uomo che aziona e regola i meccanismi della macchina del Reich. È il primo settembre del 39, l'esercito tedesco travolge la Polonia con un attacco fulmineo e scatena la Seconda Guerra Mondiale. I primi anni del conflitto sembrano dar ragione ai nazisti. Nel 1941 i bombardamenti su Londra vogliono indurre la Gran Bretagna a firmare un armistizio. Gli uomini più vicini ad Hitler sono inebriati dai tanti successi, ma il vice di Hitler, Rudolf Hess, si sente messo da parte. Seguire le questioni interne del partito nazista lo rende insoddisfatto e comincia a disertare anche le riunioni più importanti. Bormann si fa avanti e si propone come rappresentante di Hess. Hitler accetta e fa di Bormann uno degli uomini chiave del Reich. D'ora in avanti Bormann si dedicherà esclusivamente al Führer, riducendo la vita familiare a qualche lettera e sporadiche visite. Nel frattempo si adopera per emarginare sempre di più Hess. Il responsabile della comunicazione del Führer, Rochus Misch, ricorda una delle rare visite di Hess. È il giorno in cui Hitler riceve la risposta ad una sua richiesta di armistizio con la Gran Bretagna. Erano a tavola e arrivò un messaggio in cui si diceva: «Mio Führer, gli inglesi rifiutano». Allora Hitler disse: «Mio Dio, ma che devo fare? Non posso certo andarmi a gettare in ginocchio da loro». Quella frase fu decisiva per Hess. Rudolf Hess è sicuro di poter convincere gli inglesi a firmare la pace con la Germania e decide di agire autonomamente. Il 10 maggio del 1941 Hess vola da solo attraverso la Manica e atterra in Gran Bretagna. Se la sua missione avrà successo, riacquisterà la stima di Hitler e la posizione di un tempo. Hitler è all'oscuro del piano di Hess e quando la notizia arriva, monta su tutte le furie. Quando Hess volò in Gran Bretagna, al Berghof vivemmo dei momenti terribili. Hitler non si fece vedere per quasi 2 giorni. Pare che avesse detto: «Proprio non capisco come ha potuto farmi una cosa del genere». È il momento che Bormann attendeva da tempo. Si offre di condurre l'inchiesta sulla vicenda e comincia a indagare sui collaboratori personali di Hess. Hess aveva ordinato ad aiutanti e collaboratori di tenere la bocca chiusa e quelli gli avevano obbedito. Ad organizzare tutto era stato proprio l'attendente di Hess. A quanto mi risulta, Bormann ordinò che tutte le persone coinvolte che avevano taciuto fossero internate nei campi di concentramento. Ma probabilmente Bormann era contento dell'iniziativa di Hess, perché gli permise di diventare capo della cancelleria del partito. Terminate le sue indagini, Bormann consiglia a Hitler di dichiarare Hess malato di mente e ordinare di sparargli a vista nel caso si ripresentasse. Tolto di mezzo Hess, Bormann adesso dirige l'ufficio appena istituito della cancelleria del partito. Per Hitler, Bormann è una miniera di informazioni e Bormann rafforza la sua ascesa al potere con una magistrale opera di controllo burocratico. Senza la sua personale approvazione nessuno può vedere il Führer. La nuova posizione di Bormann crea malumori tra i generali di Hitler, per i quali lo stesso Bormann resta sempre un burocrate rozzo e ignorante. Tra di noi si diceva che il capo non aveva al suo fianco l'uomo giusto. Questo dicevamo fra noi, fra camerati, specie fra i più anziani. Noi stavamo col Führer prima ancora che salisse al potere. Forse dal punto di vista di Hitler, certo Bormann era un lavoratore leale e diligente, ma come consigliere non era la persona giusta. Davvero, non era la persona giusta. Un servitore ossequioso dunque, l'uomo ombra del Führer, ma anche un consigliere da cui diffidare. Bormann a un certo punto riesce nell'impresa di scalzare Hess dal cuore di Hitler e ne diventa il più stretto collaboratore. La sua abilità consiste proprio nello sfruttare a suo vantaggio anche i momenti di difficoltà del Führer e del Terzo Reich. È stato così per il volo di Hess in Inghilterra ed è stato così anche quando l'inarrestabile marcia trionfale della Germania viene fermata nell'inverno russo. Stalingrado, inverno 1942. Sul fronte russo la sesta armata tedesca è costretta ad arrendersi. Le sorti belliche del Terzo Reich sono cambiate, ma l'avvicinarsi della sconfitta, paradossalmente, porterà Martin Bormann a diventare l'uomo più potente in Germania subito dopo il Führer. Dopo Stalingrado, Hitler divenne una specie di recluso. Restava alzato tutta la notte, prendeva sempre più farmaci e i suoi medici non facevano che prescriverglieli. Se non ci fosse stato Bormann, Hitler si sarebbe autodistrutto molto prima e forse la guerra sarebbe finita più in fretta. Fu Bormann a tenerlo in piedi. Hitler promuove Bormann segretario del Führer, incaricato di tutti gli affari di Stato. Il titolo è solo una formalità. Di fatto Bormann si occupa già da tempo di tutte le questioni interne del Reich. Nei lunghi anni della guerra sarà il principale esecutore dei piani di Hitler. Bormann dirama gli ordini del Führer e distribuisce gli incarichi per la soluzione finale del problema ebraico. Ordina la chiusura di chiese e istituti religiosi. Attribuisce alle SS la giurisdizione nei territori occupati su polacchi, russi, ebrei e zingari. Esige un duro trattamento dei prigionieri di guerra. Organizza la milizia popolare e, verso la fine della guerra, mobilita tutti gli uomini abili dai 16 ai 65 anni di età. Gli ordini di annientare intere comunità vengono diramati dal suo ufficio. È tanto colpevole e responsabile della morte di ebrei, zingari, omosessuali e slavi quanto lo sono Himmler e le SS, anche se in modo diverso. Infatti Bormann era il motore del Terzo Reich, uno degli individui senza volto che ne garantivano l'efficiente funzionamento. Per il giornalista Gerhard Posner, dunque, Martin Bormann è colpevole, profondamente colpevole. Una colpa che anche il figlio di Bormann, Martin Junior, non può negare. La colpa principale non solo dell'olocausto degli ebrei europei, ma anche della terribile guerra di annientamento contro i popoli slavi dell'Est, contro Sinti e Rom e tutte le altre etnie che figuravano in quelle liste, è propria dell'ideologia nazionalsocialista. E in questo senso mio padre ha senza dubbio delle gravi, pesanti, terribili responsabilità. Marzo 1945, gli alleati invadono la Germania. Dal suo bunker di Berlino, Hitler annuncia per radio che morirà combattendo con i suoi soldati. Bormann resta al suo fianco. Scrissi l'ultima lettera a mio padre nel marzo del 45. Mi rispose con una specie di metafora. Anche quando è morente, il leone può sferrare zampate terribili. Mi scrisse proprio questo. Il leone era il simbolo britannico, ma forse lui si riferiva al Reich. Il nostro simbolo era l'aquila, ma questa era andata in pezzi ormai da tempo. Aprile 1945. L'armata rossa ha completamente circondato la capitale tedesca. Sta per cominciare la battaglia finale per la conquista di Berlino. La cattura di Hitler renderebbe il successo perfetto. Bormann sente il cappio stringersi attorno al collo. Dunque, il 21 aprile del 45, Berlino è in fiamme. Nel bunker della cancelleria, Hitler è asserragliato ed è pronto a morire. Lì si consuma l'ultimo atto della tragedia nazista. In quel bunker ci sono tutti i più alti gerarchi nazisti. Qualcuno come Goebbels decide di seguire Hitler anche nella morte. Altri come Himmler sono pronti a consegnarsi agli alleati e a tradire il Terzo Reich. Per Bormann questa è la prova decisiva di un'esistenza condotta all'ombra del Führer. 30 aprile 45. 39 ore dopo aver celebrato le proprie nozze, Eva Braun e Adolf Hitler si tolgono la vita. Mi trovavo vicino al locale macchine quando sentii lo sparo. Poi tutto successe molto in fretta. Lì per lì scappai per la paura, poi tornai indietro dal piano superiore del bunker. E solo allora vidi che avvolgevano il cadavere di Hitler in alcune coperte. Dopo 6 anni di guerra, più di 56 milioni di morti, infinite sofferenze per le popolazioni civili, Adolf Hitler dà ordine che il suo cadavere e quello della moglie vengano bruciati. Poi si suicida. Rochus Misch, il responsabile della comunicazione del Führer, riceve l'ordine di dare la notizia al mondo. Corsi alla nuova cancelleria dove c'era il nostro comandante e gli dissi: il Führer è morto. La morte di Hitler priva Bormann di ogni potere. Nel bunker nessuno lo teme più, tutti lo ignorano. Bormann era terribilmente nervoso e cercava in tutti i modi di stabilire qualche contatto con i generali, che però non manifestavano alcun interesse per lui. Fu lasciato solo. Dopo la morte di Hitler, Bormann era diventato del tutto insignificante. La fine si avvicina. Alcuni nazisti incapaci di affrontare la responsabilità della sconfitta si tolgono la vita. Bormann, invece, prepara la sua fuga da Berlino. Prese congedo da Goebbels e dagli altri. Poi venne da me e mi disse che c'era ancora bisogno di me, che avrei dovuto continuare a fare il mio lavoro. E aggiunse: in bocca al lupo, figliolo, addio. Indossava un cappotto di pelle nera e sotto aveva la mimetica. È così che lasciò la cancelleria. Su Berlino si riversa una grandinata di bombe e l'unica via di fuga è rappresentata dai tunnel della metropolitana. Ecco la ricostruzione delle ultime ore di Bormann, secondo il giornalista Gerald Posner. La stazione vicina distava circa 150 metri. I russi non erano ancora arrivati alla metropolitana. Attraverso le gallerie pensava di raggiungere la stazione di Friedrichstrasse, dove, secondo i suoi calcoli, alcuni reparti tedeschi stavano ancora combattendo. Quel contingente lo avrebbe aiutato ad attraversare il ponte di Weidendammer sulla Sprea. Se fosse riuscito ad arrivare fin lì, si sarebbe salvato. Da qui in poi, da questo ponte sulla Sprea dove nel 1972 sono stati ritrovati alcuni resti umani, si perdono le tracce di Bormann. È riuscito a fuggire, come pensano alcuni studiosi, o le ossa ritrovate sono davvero quel che rimane del burocrate di Hitler? Intanto con Hitler suicida e i russi a Berlino la guerra è finita. È il momento dei vincitori. 8 maggio 45. La guerra è finita. 1 milione di soldati dell'invincibile armata di Hitler ora sono rinchiusi nei campi di prigionia. Fra di loro gli alleati cominciano a cercare i criminali di guerra. 20 novembre 45. I criminali di guerra nazisti catturati vengono processati nello stesso luogo in cui un tempo erano state promulgate le leggi del regime hitleriano. Comincia il procedimento contro Martin Bormann, numero 2 del Reich, latitante. Erich Kempka, l'autista di Hitler, è fuggito dal bunker insieme a Bormann. Quando ha visto l'imputato Martin Bormann per l'ultima volta? Ho visto il capo della cancelleria Martin Bormann la notte tra il 1 e il 2 maggio del 1945. Alla stazione della Friedrichstrasse, sul ponte Weidendammer. Il carro armato è esploso proprio sul lato in cui Martin Bormann Il Reichsleiter Martin Bormann stava camminando. A suo parere, l'esplosione è stata talmente forte da provocare la morte di Martin Bormann? Sì, sono sicuro che, considerata la violenza dell'esplosione, Martin Bormann è rimasto ucciso. Ma una successiva testimonianza di Arthur Axman, leader della gioventù hitleriana, sembra contraddire la versione dei fatti fornita da Kempka. Axman afferma di aver visto Bormann sul ponte Weidendammer. Era passato davanti a due corpi apparentemente senza vita ed è sicuro che uno era quello di Martin Bormann. A dispetto delle testimonianze, non viene rinvenuto nessun cadavere. Questo tribunale, sulla scorta dei capi di imputazione per i quali è stato processato, condanna l'imputato Martin Bormann alla morte per impiccagione. Il processo di Norimberga non è solo il tentativo degli alleati di punire i colpevoli delle atrocità naziste. Per molti tedeschi rappresenta anche un rito di espiazione pubblico, di distacco e di dissociazione dai 30 anni di violenza e crimini hitleriani. Tra questi tedeschi c'è anche il figlio di Martin Bormann. Era incriminato per tutti e quattro i principali capi d'accusa. Preparazione della guerra di aggressione, crimini contro la pace, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Quindi venni a sapere che quell'uomo aveva apposto la sua firma su documenti terribili, su ordini di deportazione. Figurano tutti come allegati agli atti del processo di Norimberga. Per me era necessario scindere. Qui c'era il padre, lì un uomo con pesanti responsabilità politiche. Accanto al dramma intimo e personale dei figli di Bormann c'è il giudizio della storia. Bormann è un criminale di guerra e come tale deve morire, ma Bormann è latitante. Forse si è suicidato, forse invece è fuggito ed è ancora vivo. Ma dopo la fine del processo di Norimberga, in tutta l'Europa inizia la caccia a Bormann. Nel 1962 il dossier su Bormann approda nell'ufficio di Fritz Bauer, un procuratore distrettuale tedesco. Bauer ordina che si scavi nel luogo in cui Arthur Axman ha detto di aver visto Bormann per l'ultima volta. Ma gli scavi non danno alcun risultato. Nel 1965 Fritz Bauer muore ancora convinto che Bormann sia riuscito a sfuggire alla giustizia. Poi, nel 1972, alcuni operai di un cantiere edile di Berlino fanno una scoperta sensazionale. Dal terreno vengono alla luce i resti di due cadaveri. Il governo tedesco incarica il responsabile medico della polizia scientifica di Berlino, il dottor Hans Riedel, di analizzare i teschi. Riedel mette a confronto la dentatura ritrovata con le cartelle odontoiatriche militari di Bormann. Nel 1973 ricevemmo la documentazione relativa alla scoperta del corpo di Martin Bormann. In base a quella documentazione, fummo in grado di procedere alla identificazione. Potemmo constatare che i dati coincidevano quasi al 100%. A mio giudizio, chi avanza dei dubbi su questi risultati desidera solo mantenere in vita Martin Bormann. Tutto sembrerebbe molto chiaro. I resti ritrovati coincidono con i dati contenuti nelle cartelle odontoiatriche di Martin Bormann. Ma lo scrittore Gerald Posner non la pensa così. Buenos Aires, 1984. Gerald Posner sta conducendo alcune ricerche negli archivi di Stato della Polizia Federale. Su un tavolo a circa 3 metri di distanza vidi un faldone alto circa 20 centimetri su cui era scritto Bormann, virgola, Martin. Io ingenuamente chiesi alla polizia se potevo dare un'occhiata a quella cartella. Dovesse ricapitarmi oggi, cercherei di aprirla senza dire niente, perché ovviamente la risposta fu no. Il governo argentino non solo vietò l'accesso al dossier su Martin Bormann, ma ne negò addirittura l'esistenza. Ma anche tra i figli dei gerarchi nazisti c'è chi non crede alla morte di Bormann. Klaus Eichmann, figlio dell'ufficiale delle SS, giustiziato a Gerusalemme, viveva a Buenos Aires con suo padre. Lei è un vigliacco, signor Bormann. Può farsi dichiarare morto 1000 volte, spacciarsi per proprietario di una segheria in Cile, o ingegnere minerario in Bolivia, o mercante di caffè in Brasile, ma non riuscirà a sottrarsi alla giustizia. Può stare sicuro che farò tutto ciò che è mio potere perché questo avvenga. Insomma, tutte queste ipotesi così suggestive non fanno che alimentare il mito e l'enigma di Borman. Della sua vita, della sua fuga, della sua morte, un interrogativo che sembra impossibile riuscire a sciogliere, ma che non ferma la ricerca di Gerald Posner. Non è solo una questione tecnica, ma anche una questione di giustizia. Si tende a dire, chi se ne importa, invece di indagare per cercare di sapere per intero la verità storica. Sapere cosa ne è stato di un personaggio chiave come Martin Bormann significa rendere giustizia sia alla storia che alla memoria di coloro che sono morti. È un obbligo morale scoprire la verità. Nel 1998 i risultati dell'analisi del DNA hanno dato il loro responso e la giustizia tedesca ha chiuso ufficialmente il caso. Ciò nonostante, ancora oggi per qualcuno non è stata data una risposta alle domande più importanti e per molti il mistero del vice di Hitler è ancora irrisolto. Gustavo Corni, professore di storia contemporanea ordinario all'Università di Trento. Allora, secondo lei, Martin Bormann è sopravvissuto o no? Io non credo che ci siano prove di alcun tipo significative che consentano di confermare questa ipotesi. Certo, nelle ore concitate della fine di Berlino, della fuga, del tentativo di fuga dal bunker, per alcuni testimoni che erano insieme a Bormann a un certo punto sostengono di non averlo più visto, altri invece sostengono di averlo visto cadere sotto il fuoco sovietico, altri ancora dicono di aver visto il suo corpo che però ufficialmente non è mai stato ritrovato. Ma lei che idea si è fatto? Da un punto di vista storico forse non riusciamo a dare un verdetto, da un punto di vista diciamo così dell'analisi complessiva io credo che sia scarsamente rilevante il fatto che eventualmente possa essere sopravvissuto, anche se a mio parere elementi sicuri in questo senso non ci sono. Perché poco rilevante? Poco rilevante perché non ha modificato assolutamente nulla nella storia del Terzo Reich, nella storia della Germania dopo il 1945, che sia sopravvissuto o meno. Diverso invece il caso della ricerca dei criminali, per esempio Mengele, che poi è sfociata effettivamente in esiti, o Eichmann, anche lui sparito. Non ha cambiato assolutamente nulla, se anche fosse sopravvissuto non si è mai avuta alcuna segno di vita da parte sua, quindi da un punto di vista diciamo della risonanza eventualmente politica di una sopravvivenza di Bormann non abbiamo nessuna conseguenza rilevante. È invece importante tenere presente che si tratta di uno dei tipi di quei tipici casi in cui così dopo la guerra una certa letteratura un po' sensazionalistica, un certo giornalismo soprattutto anglosassone hanno soffiato sul fuoco insomma di queste presunte sopravvivenze, come lei saprà si favoleggiò anche di una fuga di Hitler prima della fine di Berlino, si è qualche volta messo anche in dubbio che i famosi resti trovati nel cortile fossero effettivamente di Hitler e di Eva Braun. Tutto questo fa parte più della parte sensazionalistica sulla quale un certo giornalismo, per carità, facendo magari anche il suo mestiere, è fiorito, perché non dimentichiamo che sono stati pubblicati fiori di libri, fiori di articoli, fiori di servizi su questi temi in tutto il mondo, ancora oggi di quando in quando la questione ritorna fuori. Rispetto agli altri uomini di Hitler, Bormann aveva davvero un rapporto esclusivo? Sì, è molto difficile dirlo dal punto di vista di Hitler perché, come è noto, Hitler era estremamente reticente per la sfera dei rapporti personali e, a parte il caso di Speer, nei confronti del quale così affiora di quando in quando una sorta di paterna amicizia o di paterno affetto, in tutti gli altri casi Hitler è uomo di ghiaccio ed impenetrabile da questo punto di vista. È però un dato di fatto che oggettivamente Hitler si fidava moltissimo di lui, Bormann era costantemente al suo fianco, se noi guardiamo le fotografie degli anni di guerra, soprattutto degli ultimissimi anni, se guardiamo i rari spezzoni di cinegiornale di cui ancora disponiamo, noi vedremo sempre Bormann al suo fianco. E quindi che Hitler si fidasse o meno, che Bormann fosse capace di farsi come dire, accettare come il più fidato, è un dato di fatto che egli era effettivamente negli anni 42-43 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale senza dubbio l'unica persona che rappresentasse anche un tramite tra Hitler e il mondo esterno. La Germania di oggi ha fatto i conti con il proprio passato definitivamente? Non bisogna avere paura dei tedeschi, né più né meno di quanto non si debba avere paura dei francesi o degli inglesi o di noi stessi. La Germania ormai fa parte in maniera assolutamente indiscutibile, secondo me, del novero delle grandi democrazie, è una delle più importanti e delle più aperte democrazie a livello internazionale, è una di quelle che funzionano meglio. E io credo assolutamente che non ci siano le benché minime mire egemoniche da parte della Germania né sull'Europa né tantomeno su altri contesti internazionali. La Germania ha fatto veramente in grande profondità i conti con il suo passato, viceversa, se posso aggiungere, assai meno o assai peggio questi conti li ha fatto l'Italia con il proprio passato. Grazie Gustavo Corni. Prego.